simpaticissimo che si dimentica di avvertirti. Ciao. E poi abbiamo un ospite silente di cui forse diciamo il nome, anzi due ospiti silenti, uno su due, l'altro su quattro gambe. Ah, interessante. Sì, sì, sì, sì. Ho già capito tutto, lo sai. I misteri del coxo, come hai già capito tutto? Ti conosco da un 17 anni, no, almeno 16, forse beh, 15. Allora facciamo così, sull'embè salutiamo Fughino per esatto. Art, che visto che non ci sei non ci insulterà. E, okay. Non lo so, vuoi sapere di cosa parleremo? Sì, dimmi di che cosa parlerete. Vuoi chiederlo? Anche perché io fra un po' potrò ascoltarvi, perché sono a Modena Sud. Ah, ok, quindi stai entrando nelle FM. Esatto, più o meno a Castelfranco penso che comincia a sentirti. Ma quindi stai ritornando, ma vieni direttamente qua, no? Sì, insieme anche al tuo autista, autista d'occasione, salutamelo. Non te lo saluto. Vabbè, noi comunque parleremo di appello agli abitanti della Terra contro il cancro della paura. Ah, bello. Hai capito? Sembra un'ottima idea. Sì, infatti. Sembra un'ottima idea. Un titolo che racchiude un'ottima idea, che fra l'altro è stato distillato nelle pagine di un libro che, se non sbaglio, è il quarto testo pubblicato da Simone Ramilli. E quindi qui stasera tu sei in che versione sei? Scrittore, bene. E naturopata. Che ne dici Stefano? Ti salutiamo? Mi sembra un'ottima trasmissione, no? Volevo giusto dirti che martedì scorso ho conosciuto questa signora che si chiama Angela Volpini, che ha avuto visioni mistiche e secondo me le sarebbe interessata anche lei questa puntata. Ve la devo raccontare prima o poi questa cosa. Ci risentiamo al 181esimo coxo con i racconti della signora Volpini. Se riesco te lo racconto da Shanghai, dai. Ah dai, va bene, facci qualche rubrica con le interviste in cinese, non mi sembra male, no? Facciamo un collegamento su Skype. Potrebbe essere un'opzione. Va bene, dai, ciao, ti saluto, che qua il tempo corre, abbiamo già sforato. Che è sempre così con te, mi fai fare le pastinate anche a me, non va bene. Infatti. Un bacio, torna presto, ciao. Ce la farò, ciao. Bene, abbiamo salutato Stefano. Per riprendermi un attimo di questa sorpresa che non c'è neanche stasera, pensavo di proporre un brano preso dall'ultimo album uscito fresco fresco qualche settimana fa del mio gruppo preferito. Si chiama Work Together e loro sono i Dirty Projectors. Sempre che vada. Sì, va. If we were together, I feel love should be enough to get it easily done. Maybe love is competition that makes us raise the bar and better ourselves. We could be so good if we work together. Maybe love is competition that makes us raise the bar. We better ourselves. I'm just here for the reciprocity to drop. Now we won't see. come chiacchierano. È uno degli sport preferiti del coxo, mettere fuori i fuori onda degli ospiti a tradimento. Di cosa state parlando, amici? Beh, allora, ritorniamo in diretta in maniera più seria. Mi sono ripresa dalla mancanza del Pasquini, che insomma qua non ci si rivede più per mesi a questo punto. Comunque, benvenuti alla 178esima puntata di Coxo Spaziale. Siamo qui in diretta sulle frequenze di Radio Città Fujiko 103.1 e i nostri super mega galattici ospiti della puntata sono in primo piano Simone Ramilli, in qualità di scrittore e naturopata. Ci farà un approfondimento dalla sua ultima pubblicazione, è l'ultima al momento, sì, Appello agli abitanti della terra contro il cancro della paura. E poi abbiamo un misteriosissimo ospite silente che ne introduce un altro a quattro zampe. Lui, quello silente, invece dice no, che non si chiama perché è silente, quindi è anche però è lì, e qua appena siamo in fuori onda comincia a fare il simpatico e parla anche lui. Simone, siamo io e te, quindi, perché il silente ci fotograferà al massimo. Certo. Avvicinati un pochino di più al microfono, sì, così ti sentiamo in tutti, e chissà quanti saremo ad ascoltarti, a parte me e il silente. Ah, ho bisogno di saperlo assolutamente. E quanti saremo? Quanti potremo essere? Chi ci potrebbe aiutare? Non lo so, io potrei lanciare un 333 180 94 94. Quanti siamo ad ascoltare Simone stasera? SMS, WhatsApp, e poi in realtà questo numero, che lo ripeto perché mi dicono che lo dico troppo poco, 333 180 94 94, è anche una buona occasione per sfruttare il sapere di Simone, che in quanto naturopata ha una grandissima esperienza, un sacco richiesto, una sorta di star, perciò insomma sfruttiamo l'occasione. E infatti questo è anche uno dei motivi per cui, dopo mesi e mesi di corteggiamento, finalmente è arrivato. Quant'è che ti rompo le scatole per venire al coxo, Simone? Mesi, ma non è stato assolutamente piacevole. È solo che ero in tournée a presentare il libro e quindi abbiamo dovuto rinviare. E appunto, questo libro, cominciamo col dire quando è uscito e da quanto lo stai presentando, per poi entrare nei contenuti. Sì, è uscito fine gennaio, i primi di febbraio, e diciamo il titolo, ovviamente, è un titolo molto, mi hanno detto, importante, ma io ho pensato anche a un titolo, visto che il mio precedente libro si chiamava La cura, e quindi era assolutamente sintetico, questo l'ho voluto fare più, diciamo, roboante. Ti dirò che io sottoscrivo pienamente la scelta dei titoli lunghi, ci si mette un po' a capirli, ma quando poi li cogli ti rimangono di più. Sì, poi sì. Ti introducono già in una narrativa. Questo comunque era. E comunque La cura e L'appello, nonostante possano sembrare temi separati, in realtà mi hai spiegato bene, sono molto contigui. Sì, esattamente. Nella cura trattavo quello che è un po', diciamo, il tema centrale dei miei libri precedenti, quindi il discorso della malattia, l'origine della malattia, la correlazione, se esiste o meno una correlazione tra malattia e conflitti, diciamo, psichici. E diciamo che in quest'ultimo libro, se in quelli precedenti ho trattato appunto della cura della persona, mi sono reso conto, studiando e approfondendo, che in realtà il mondo intero ci condiziona, i nostri stili di vita, e quindi sono coinvolte questioni ben più complesse che, diciamo, potrebbero essere assunti dalla parola biopolitica. Cioè, come la vita appunto evolve e incontra anche difficoltà fino alla malattia, ma spesso la malattia può essere anche causa, diciamo, dei tempi difficili. Sì, infatti mi veniva un collegamento in testa, mi è venuto in mente che ti sei presentato come scrittore naturopata, mentre pensavo di scriverti, ma quindi qual è venuto prima e via dicendo nel tuo percorso personale, mi sono ritrovata a pensare che, alla luce di quel poco che so e che ho avuto la fortuna di incontrare del tuo percorso, effettivamente anche questi sono temi che possono dirsi congiunti, perché bene o male la cura o la malattia dipendono anche in qualche modo da un certo tipo di narrazione che un individuo fa di se stesso. Potrebbe starci? Stavo pensando rispetto alla questione della somatizzazione delle circostanze negative. Assolutamente sì, assolutamente sì. Esattamente questo in qualche modo il tema centrale di cui parlo, dove per negative non intendiamo soltanto magari aspetti legati a flussi, come dire, energetici, scambio di energia, ma scambio a tutti gli effetti, scambio relazionale, scambio di affetti tra le persone e anche le conseguenti ferite d'amore che appunto possono insorgere soprattutto nelle relazioni umane, perché sappiamo che l'uomo è un animale, ma è un animale sociale, e molte delle ferite d'amore, che io sostengo essere causa di molte malattie, originano proprio da ferite all'interno dei rapporti, prima di tutto familiari e poi della società in generale. Ti ringrazio per aver colto il mio punto di vista, e colgo l'occasione per dire che probabilmente ripetere 333 180 94 94 ha buon esito, perché abbiamo già un messaggino su WhatsApp che a leggerlo mi sa che è del nostro amico Fuga per Arte, che ci sta ascoltando nonostante non ci sia Pasquini. Perciò ci chiede: cazzo è un naturopata? Ok, cominciamo quindi. Hai cominciato come naturopata, facciamo un piccolo cappello nello specifico su cos'è, perché poi sono parole che in questi anni si vengono a riempire di tantissimi tipi di contenuti anche fuorvianti, e perciò cogliamo l'occasione di sfruttare la presenza del nostro super mega galattico ospite Simone Ramilli. Che naturopata sei e che cosa vuol dire essere naturopata oggi? Ecco, guarda, mi viene più facile se mi chiedi che naturopata sono. Nel senso che la naturopatia è qualcosa di talmente vasta, diciamo, che riguarda un po' tutte, abbraccia tutte le cosiddette medicine olistiche, ecco, quindi gli approcci sono tantissimi. Il mio è quello che ho detto: studiare la correlazione tra malattia e conflitti. Diciamo che però negli ultimi anni dedico molto più tempo alla scrittura e a questo tipo di ricerca, che poi appunto mi ha portato a quest'ultimo libro, dove in sostanza parlo di: per guarire la malattia bisogna appunto curare il mondo, curare la società, e da qui l'appello agli abitanti della Terra contro il cancro della paura. Appunto, quali sono gli effetti della paura, del terrore che viviamo in questi anni, e cosa producono nella nostra mente e anche nel nostro corpo, ma anche cercare di capire come uscirne fuori, ecco. Interessantissimo. Ma vorrei chiederti un sacco di cose, però mi sembra di... Cioè, naturopata, tornando un attimo alla domanda del nostro ascoltatore, che finora almeno ne abbiamo uno, se vogliamo sapere quanti sono. Ho detto, parlo di me, cioè nel senso che nel mio approccio la naturopatia si estende fino a una visione mondo, perché appunto così come va il mondo condiziona noi stessi tutti quanti, ammala, diciamo, le relazioni, intossica le relazioni. Sappiamo per esempio che in questi anni, insomma, la qualità delle relazioni umane, ci lamentiamo un po' tutti, no? Che è aumentata la cattiveria, è aumentata la violenza, è aumentata anche il disagio psichico, se non che non sfoci magari nella vera e propria malattia psichica, però oggi sappiamo che gli scoppiati siamo tanti. Sì, ma spiegami un attimo, quindi potrebbe anche essere così dal suono della parola che naturopata sia qualcuno che tende ad aiutare a curare una situazione di disagio o proprio una malattia di un'altra persona senza usare i farmaci? No, ne parlo con un certo, diciamo, imbarazzo, nel senso che la professione naturopata è una professione che in Italia è riconosciuta fino a un certo punto, ecco, quindi è un mestiere ancora, diciamo, in divenire. E questo ha anche dei pregi, se vogliamo. Ha dei pregi, certo. Io sono partito 20 anni fa, più o meno, insomma, per cui. Però appunto. Sì, è un po' la cura, tra virgolette, più che altro si dice riequilibrio energetico, perché naturopata lavora appunto sulle energie e il riequilibrio di ciò che appunto. Tutto ciò che può essere una fonte di squilibrio, e poi i mezzi, quindi, sono tanti, la floriterapia. Quindi si tratta principalmente. Sempre proprio... però, attenzione, il naturopata non cura la malattia, perché quello è un compito riservato ai medici, e quindi solo i medici curano le malattie. Diciamo, il naturopata sostiene l'equilibrio e un percorso personale di vita. Quindi è un punto di vista diverso rispetto al tema del corpo dell'altro, nel senso il corpo visto come intreccio di relazioni piuttosto che come nevralgia di cioè come insieme di pezzi separati da curare separatamente. Sì, diciamo, in qualche modo questo è un approccio olistico, ecco, un approccio olistico. Allora, il nostro ascoltatore di prima che chiedeva ho sbagliato prima, avrei dovuto dire Coxo è un naturopata, perché noi qui siamo ancora in una fascia che le parolacce non si possono dire. Insiste dicendo: ho capito, è una roba da radical chic di sinistra. Ma no, non direi, non, come dice quel personaggio televisivo, non direi, che non è televisivo in realtà, è un parlamentare. No, beh, i parlamentari sono televisivi da noi. Esattamente. No, direi, non necessariamente. Però intanto abbiamo, cioè, ce lo sta conducendo lui, il nostro ascoltatore, il programma. Vedi che siamo interattivi. Voi chiamateci al 333-180-9494 e potremo anche andare oltre rispetto a questi temi, a queste svolte, a questa conduzione, che io sono rimasta sola senza Stefano, ho bisogno di una spalla. E detto questo, siamo arrivati quasi alla metà della nostra puntata, quindi io potrei, visto che abbiamo un bel po' di pubblicità, mettere un altro branino. E poi ci ritroviamo dopo la mezza per continuare con questa avventura, entrando più nello specifico rispetto al Simone Ramilli, scrittore, e a quest'ultimo testo che ho qui sotto le mani. Sentitelo qua. Ecco, qui. Va bene, allora vado. Simone, che dici? Vai. First time ever I saw your face, laid my eyes on you, was the Bowery ballroom stage. You were shredding Marshall too, and I knew that I had to get to know you. Why don't you pack your clothes, move to Brooklyn on your own, up SMS. But we both knew a mood like this so strong would be wrong to suppress. Felt like it bore the impress of destiny. Out in a minivan in New England, our eyes met. We said yes and we love. We said yes. My love will just fade away. First time ever I kissed your mouth, we both felt time stop. My heart, it leapt up wild, jumped from a mountain top, and I knew maybe I could be with you, do the things that lovers do, slightly domesticate the truth, and write you stillness is the moon. Slept on floors never ending, our feeling obscure but pure, and all of a sudden, this is how we saw the world side by side from the road and the stage. So our lives were twined and curled and mixed up like the code we obeyed, and that was basically dream, and I dreamed it with you till we betrayed, yeah. And love will burn out, and love will just fade away, and love's gonna run, and love will just separate ways, but we're still connected. You'll go for same, and that's how it breaks. Wash it away, all of the pain, all of the pain and anger. It slips away, love slips away, but it will remain, it will remain unanswered. Now I'm listening to Kanye on the Taconic Parkway, riding fast, and you're out in Echo Park blasting. Coxo spaziale. Ed eccoci tornati alla 178esima puntata di Coxo Spaziale. Io sono qui in studio senza il W che ci ha traditi andata per l'arte milanese. Sono qui con il super mega galattico ospite Simone Ramilli. Alle mie spalle c'è la ospite silenziosa quadrupede. E insieme a Ramilli di là invece c'è l'altro ospite silente. Ma vogliamo dire due parole di questa ospite, su questa ospite alle mie spalle? Tac. Tac, che il nome è Scodinzola adesso. Nonché noto attore. È vero, perché si apre proprio un tema. Attrice. Ha fatto fiction, film, video, diciamo bene? Sì. Anche... Come l'hai conosciuta tu? Ma io l'ho conosciuta tramite un suo amico, che è l'ospite appunto silente. Che, non che lei se lo porta dietro un po' così. Se lo porta dietro, lo accudisce. Ma è vero che lui qualche volta le fa anche da gente? Esattamente, sì. Quindi gli ha trovato anche un lavoro? Ma diciamo che Tac è molto autosufficiente, un po' si organizza da solo, non ha bisogno di manager. Diciamo che Giovanni è l'amico del cuore. Ma Tac è un acronimo, se non sbaglio. Attacco generale alla belligeranza, com'era? Sì, qualcosa direi del genere. Ci può dire qualcosa il silente Giovanni? Cosa ci dici? Cosa volete sapere? Da dove viene TAC, l'acronimo di? TAC è attacco generale, nel senso che quando l'ho conosciuta si è attaccata e quindi in generale si attacca un po' a tutto. Un po' a tutto, ma in particolar modo a te? Si è attaccata a me, si è attaccata agli amici e infatti oggi siamo stati coinvolti per la strada e da Simone che veniva a trovarti e Tac si è attaccata a Simone e lui si è attaccato a un taxi, io mi sono attaccato a Tac e ci siamo attaccati tutti qui. Ma fra l'altro Tac è stato anche il motivo per cui io ho conosciuto Simone. Ah sì? Raccontacelo. Perché me l'avevi affidata e io nell'attesa di ridartela ho chiesto ospitalità a lui e ad un suo amico se potevo stare insieme a loro fino a che non tornavi. È interessante anche questo nell'attesa di ridartela, che potrebbe suggerire fantastiche perversioni a questo. No, non è l'ora esatta, non è per quelle, sono altre fasce orarie. Comunque ti ringrazio per questa precisazione. Adesso che sta cambiando la musica di sottofondo, che è più sicherata questa cosa più di suspense, ritorniamo a Coxo sul tema della trasmissione, che, lo ripeto, è appello agli abitanti della terra contro il cancro della paura, che oltre ad essere un appello è un bel concetto, è anche un libro, l'ultimo pubblicato da Simone Ramilli. Esattamente. E quindi adesso riavviciniamo il microfono dalla parte del Simone. Ok. E come possiamo entrare dentro questo libro? Ci possiamo entrare attraverso una storiella che nel libro racconto, che poi in realtà è un fatto assolutamente vero, che è quello del noto noti fatti, diciamo, che riguardano il leone Cecil. Molti ascoltatori ne avranno sentito parlare nell'estate, se non sbaglio, del 2014 o quindi l'estate 2015. E leone Cecil era un leone che appunto viveva in Zimbabwe, libero, però aveva un microchip ed era seguito da un istituto scientifico britannico e quindi ed in realtà era diventato famoso perché era possibile anche per diciamo gli internauti seguirne le avventure. Cioè, quindi uno si collegava alla rete su una mappina e geolocalizzava il leone Cecile, vedeva dov'era. Esatto, era diventato diciamo un personaggio della savana, così insomma ci piace immaginare, come Tac del resto. Ma Tac non è geolocalizzabile. A sua insaputa, forse, nel caso del Leone Cecil. Comunque Tac lo sa. Sì. Comunque il Leone Cecil è niente, un bel giorno un noto dentista, diventato noto successivamente, dentista Walter Palmer americano, decide di, forse per noia, forse per portare a casa appunto un trofeo da esibire agli amici, gli viene la bella idea di andare a cacciare un leone. Ma è pazzo questo? E beh, è stato molto infamato, diciamo, dalla rete. C'è anche chi ne aveva chiesto addirittura l'arresto, o peggio ancora. Forse peggio ancora. Peggio ancora, soprattutto. Peggio ancora, soprattutto. E niente, quindi Walter Palmer si reca appunto in Zimbabwe e con la complicità, diciamo, di un locale che porta il leone, un esperto cacciatore locale, in trappola, e quindi con facile gioco lo elimina e appunto si porta a casa il trofeo, la testa del leone. No, proprio di lui, del leone più social della savana. Esattamente, questa è stata un po' la sua sfortuna o fortuna, a seconda se si volesse buttare nel cinema, ecco. Ad ogni modo, perché racconto di questo episodio? Racconto di questo episodio perché un intervistato, diciamo, uno zimbabweano, si dice così, credo. Io avrei detto zimbabwese, ma zimbabwese, Tac, come avrebbe detto lei? Direi zimbabwese anch'io. si stupiva, ma in generale in Zimbabwe, del fatto che Leone Cecil, che era stato ucciso da questo dentista, ovviamente è un fatto grave, ma appunto è stato sufficientemente, diciamo, punito. No, forse no, forse c'è chi lo voleva punire di più. Ad ogni modo, si stupivano del fatto che il leone, certamente in Zimbabwe, come molti animali, diciamo, selvaggi, sono animali simboli totemici, quindi dei veri e propri dei. Però nonostante questo il leone rappresenta pur sempre, per un zimbabweano, rappresenta pur sempre una pericolosa minaccia per se stesso, per il proprio villaggio. Sappiamo che un leone è capace di uccidere anche centinaia di persone, e dunque, diciamo, per quanto non si possa rallegrare della morte di un leone, tuttavia la domanda che viene, penso, anche l'ascoltatore è certamente: però chissà perché non fa cronaca, appunto, tutti i bambini che muoiono magari appunto per fame, zimbabwiani, e che si trovano appunto in condizioni di grave difficoltà. E quindi, però, quando muore un essere umano, per esempio, per attraversare il Mediterraneo, perché magari fugge da guerre o da condizioni di povertà, però fa meno cronaca forse di un leone ucciso. Ecco, questo è un paradosso che volevo dire, che ho voluto raccontare nel mio libro, per dire che sì, oggi sono tempi difficili e la paura è un fattore dominante, e effettivamente sono tanti fattori di crisi, lo sappiamo, compreso il fenomeno, anzi importantissimo, dell'immigrazione, no? Che è un fenomeno che ha una portata epocale, e si parla che nei prossimi anni un miliardo di abitanti della Terra, per svariate ragioni, sia di povertà economica, ma soprattutto per fuggire da guerre o da carestie, magari conseguenti agli sconvolgimenti climatici, ed è un fenomeno che, da come ce lo presenta la politica, sembra irrisolvibile. Ecco, questo, ho voluto inquadrare questo a partire anche dagli attentati terroristici, diciamo, che ormai sono non quotidiani ma comunque mensili, con cadenze, insomma, importanti. E quindi il tema della paura è diventato un tema centrale, e nel libro cerco di capire, inquadrare, analizzare, e soprattutto come uscirne tutti insieme. Ok, quindi diciamo che sì, il tema di Cecile era un po' il paradosso mediatico rispetto a cui vengono trattate cose di diversa caratura, per in un certo modo forse distrarre l'attenzione o creare una Babilonia di situazioni e circostanze che non permettono un dialogo costruttivo. Lo stesso si potrebbe dire per il peso diverso che ha la vita secondo di dove abiti, nel senso che sappiamo che la vita non è uguale, la vita di un occidentale con quella di un abitante magari di quello che una volta si chiamava Terzo Mondo, nel senso che tanti attentati avvengono lì con migliaia di morti, però se ne parla e soprattutto si piange di meno. Già, questo è vero. Allora, tempi radiofonici, continuiamo con le proposte prese dall'ultimo album dei Dirty Projectors, che se non sbaglio ha titolo omonimo, si chiama come il gruppo, e Little Bubble. Eccoci in diretta per la 178esima puntata del Coxo, e insieme al nostro super mega galattico ospite, scrittore naturopata, qui adesso in veste di scrittore, Simone Ramilli, che ci sta facendo fare un primo viaggio di attraversamento all'interno del suo ultimo libro, che si intitola appunto, che è un appello, è appello agli abitanti della Terra contro il cancro della paura, un titolo significativo, narrativo, che appunto riporta anche in eretto alcune parole chiave. Il tema dell'appello secondo me è estremamente seducente, appena l'ho avuto per le mani mi sono detta che wow, che bello. Cioè, come pensare, quante volte abbiamo singolarmente pensato di poterci appellare con il buon senso a tutto il mondo rispetto a determinate scelte o opzioni che sono talmente ovvie però non riescono ad essere accolte dai più, no? La possibilità di avere un appello, come nasce questa questo, cioè questo libro, ma anche solo il concepire questa possibilità? Voglio partire da un fatto di cronaca nera o un fatto di guerra, propriamente parlando, notizie oggi dei giornali, no? La grande bomba, la bomba definita la madre di tutte le bombe, che è stata sganciata in Afghanistan. Ecco, parto da un fatto della contemporaneità per dire veramente dei tempi duri che stiamo vivendo. Papa Francesco parla appunto di una terza guerra mondiale fatta a pezzettini, no? E quindi è un momento difficile. Tuttavia, c'è da dire una cosa, è un po' questo il senso dell'appello, che quando la paura giunge a livelli massimi di terrore, a un certo punto, un po' per lo spirito di sopravvivenza, un po' per lo spirito, diciamo, straripante della vita, della vitalità che continua a esistere ed è molto forte, è sopravvissuta a sfide, diciamo, nel tempo difficilissimi, ecco, lo spirito vitale a un certo punto riaffiora proprio come reazione alla paura. E allora posso fare un gioco che lancio anche agli ascoltatori come riflessione, indovinare le tendenze future. Allora, le tendenze disastrose le conosciamo, le tendenze invece future positive, secondo me, sono queste, possono essere queste, cioè che da un periodo di grande paura e terrore a un certo punto possa rinascere quello che in passato, diciamo, è stato racchiuso nelle parole d'ordine di peace and love, e quindi pace e amore. Allora, voglia di pace. Riproviamo di pace, con il numero magico 333 180 94 94, per suggerire tendenze future rispetto a queste tendenze culturali, se quindi ci sarà un irrigidimento e una chiusura, oppure se ritorneranno appunto altri ismi. Ecco, secondo me più che ismi ritorneranno, in qualche modo, se posso dirlo così, prendendo da una sequenza storica fortunata del passato, torneranno i figli dei fiori. Figli dei fiori, in una versione magari non più hippie, magari una versione techno, cyborg o non so che cosa, ma torneranno i figli, sì, dei fiori, perché per reagire alla paura, alla scarsità creata forse da elite estremamente spaventate anche loro in questo momento, affamate, e allora una reazione di voglia di pace, ma non solo, voglia di abbondanza, voglia di invece di accumulazione di denaro senza sosta e senza fine ad opera di pochi, circolazione di ricchezza, scambi umani, pace, affetti. E sarà sicuramente un movimento transnazionale, transcontinentale. Beh, me lo auguro. Mi piacerebbe farne parte, qualora, ecco, con diciamo si può dire di mode, figli e fiori 3.0, 4.0, 5.0, figli e fiori 5.0, ci accapariamo il 5.0, che credo che ancora non sia stato. Ma perché poi hanno sempre dopo il punto lo zero, non c'hanno gli altri numeretti? Me lo spieghi tu, che questo me lo sto sempre chiesto. Vabbè, comunque riprendo in mano il libro, che è verde, verde speranza. La paura è l'emozione, il sentimento dominante. La paura è lo spirito di questo tempo. La paura è il riflesso condizionato in grado di immobilizzare, pietrificare la ragione, assecondare istinti bestiali. La paura è in grado di riportare indietro le lancette della storia e dell'evoluzione. Questo è un piccolo, una frase che leggo dalla quarta di copertina. Sì. Ed effettivamente sì, questa cosa insiste da tanto tempo, cresce e probabilmente adesso si andrà ad esaurire, auspicabilmente. Però un'altra parola importante. Non voglio dire questo, cioè i tempi non sono difficili, la mia non è una speranza. È un condizionamento culturale. È un condizionamento culturale, è una tendenza che io ravviso, che è basandomi anche proprio su aspetti biologici, perché poi io di questo mi occupo, della natura umana, considerando che l'essere umano è prima di tutto un animale. Sì, e sentivo questa cosa rispetto, sì, sai, orecchio di qua e di là, e una volta mi sono trovata ad avere a che fare con l'equipe di ricerca di Ventura, che è un cardiologo che ha sede qui a Bologna. Sì. E lui stava facendo delle ricerche rispetto alle frequenze degli organi, in particolare del cuore. Mm-hmm. E attraverso questa equipe di ricercatori, che coinvolgeva anche appunto ricercatori del suono, ha scoperto con quasi, cioè mi sembra che fosse addirittura quasi comprovato all'epoca, poi adesso sono passati anni e non l'ho più sentito. Carlo Ventura lo saluto tanto e spero, glielo chiederò il prima possibile, se ci ascolti diccelo al 333 180 94 94. Ho sentito che in buona sostanza gli organi messi in risonanza tra di loro, di solito se c'è un organo malato che ha una frequenza saltellante oppure comunque aberrata rispetto all'organo normale, di solito al 100% dei casi e tende a mettersi in risonanza, quindi a prendere il ritmo dell'organo sano. E non è mai avvenuto il contrario, cioè non è mai l'organo sano che prende il ritmo dell'organo malato, e quindi in un certo modo, in questo modo, attraverso questa contaminazione di vibrazioni, ci sarebbe un modo di poter rimettere in sesto un organo malato. Questa cosa mi ha colpito tantissimo perché insiste su una cosa che ho sempre un po' sentito, che come esseri umani io credo che siamo più portati all'opera positiva che all'opera negativa. E negli anni poi mi sono chiesta se tutti questi impegni economici con i media, broadcasting e quant'altro fossero stati impiegati per passare immagini positive, ma realmente positive, portando alla comunicazione tra le persone, alla costituzione di un tessuto sociale, invece che a chiudere nella paura e quant'altro, molto probabilmente con un investimento molto migliore a livello di comunicazione avremmo avuto dei risultati molto positivi. Cosa mi dici? Sono abbastanza utopica? Guarda, io credo che bene e male in realtà convivano. Io non ho una visione, diciamo, sì, parlavo di Fide e Fiori per ricordare una sequenza storica fortunata accompagnata anche a un'esplosione di mode, di creatività a livello musicale. Sappiamo che tuttora tingiamo a quel periodo di grande creatività in cui tra l'altro è stato inventato internet, il computer, e quindi in qualche modo la tecnologia su cui oggi appunto comunichiamo. È passato del tempo da allora e ad ogni modo la lotta tra bene e il male è un qualcosa che io vedo in senso più, diciamo, potrei dire taoista, no? Sì, un po' di bene è nel male, un po' di male nel bene, lo yin e lo yang. Sì, infatti i dualismi non sono mai produttivi per un buon ragionamento, almeno dal mio punto di vista. Sì, è proprio un visto del dualismo, diciamo, occidentale. Cioè, nel mio discorso, più che bene o male, dicevo, era più investimento produttivo oppure non produttivo, laddove produttivo è... Beh, io direi più che oggi sarebbe la nostra portata veramente una ricchezza straordinaria. Se pensiamo che siamo 9 miliardi di abitanti ormai sulla siamo Terra, arrivati a 9? Scusami, arriviamo a 9 nel 2050, siamo a 7 miliardi. Ah, ok, se non ci siamo. E però di questi 7 miliardi, circa 5 miliardi più o meno, 4-5 miliardi, siamo connessi tra di noi e per la prima volta siamo connessi in tempo reale, tale per cui io posso scambiare in qualsiasi momento qualsiasi, diciamo, tipo di bene, sia materiale che immateriale, con qualsiasi persona dall'altra parte del mondo. Ecco, questa potenzialità di connessioni può dare origine a una ricchezza, uno scambio che però oggi a tanti, si parla tanto di libero mercato, in realtà io credo che i vincoli per questo scambio tra persone di affetti, conoscenze e beni di ogni genere sia molto limitato oggi. Sì. Senti, qui io vorrei trovare il modo per introdurre un'altra parola che non è citata nel titolo, ma che è molto importante ai fini del discorso che tu conduci nella tua ultima pubblicazione, appunto appello agli abitanti della Terra contro il cancro della paura. E questa parola è coscienza. Sì, esattamente. Sì, direi che è un po' l'aspetto centrale che tratto nel tema. Io appunto mi occupo di questo nei miei studi, in qualche modo mi occupo di libro ricercatore, un po' anche di neurobiologia, insomma, comunque la coscienza è un mio argomento e di interesse, studio da tanto tempo e ne parlo di solito nei miei libri. Detto questo, sì, qual è l'antidoto alla paura? È la coscienza. L'antidoto alla paura sono gli scambi umani, è l'empatia. L'empatia è sinonimo di coscienza. E nel libro quindi tratto di come sia possibile sviluppare la coscienza. Lo faccio da tanti punti di vista, però qui con gli ascoltatori voglio lanciare un gioco, una provocazione per sviluppare la loro coscienza questa sera grazie a questo programma radiofonico. Sì. E la coscienza è sentita proprio la coscienza, no? Coscienza, no? È ridondante, ecco, coscienza. Ecco, pensate durante la giornata di ripetere più volte questo messaggio, questa parola, coscienza, come se fosse un mantra, una meditazione inserita nella vostra. Coscienza. Bellissimo, anche con l'effetto eco in radio coscienza. Si potrebbe fare. Aiutaci anche tu, tac. Coscienza. Ci ha sentito? Scodinzola. Ok. Bene, ecco già nominare la parola coscienza sviluppa la coscienza. Ora questo è un gioco, una sorta di provocazione. Ecco, nel libro tratto l'argomento anche dal punto di vista scientifico, ecco, e però cerco anche di favorire strumenti pratici, in qualche modo utili. Quindi sono scopo. Degli esercizi? Beh, esercizi non proprio, sono riflessioni, esercizi per la mente, per tenere, sì, diciamo, la mente in allenamento. Ecco, in altri miei libri comunque ho trattato anche di esercizi. Ma perché la coscienza è utile ai fini di un appello per contro il cancro della paura? È utile perché l'essere umano, come dicevo, è prima di tutto un animale. Con l'illuminismo, diciamo in qualche modo, che è stata un'epoca, un'altra sequenza storica estremamente fortunata, di cui adesso non ne parliamo, però ecco, è andato un po' di uso anche proprio nel linguaggio comune distinguere gli uomini dagli animali, mentre invece gli uomini sono gli animali a tutti gli effetti, se non che qualcosa li distingue. Distingue cosa? Una particolare forma di organizzazione, appunto, del cervello, che in qualche modo permette di sviluppare quella che si chiama appercezione, cioè la capacità di essere e di sapere di esistere, di essere in quel momento, quindi la consapevolezza di sé, l'osservazione di se stessi mentre si è. Ecco, questa capacità, in realtà la coscienza si dice in Veda, secondo l'antica Ayurveda, ma in generale un po' nelle tutte le filosofie orientali, si dice che in realtà la coscienza è qualcosa di tutto, i Veda dicono sempre esistito, e che comunque la coscienza, un certo gradiente di coscienza c'è dappertutto, anche nei sassi, nella materia inanimata, tuttavia nell'uomo la coscienza assume un qualcosa di unico. Ecco, la coscienza è ciò che distingue l'uomo dall'animale. La paura è invece ciò che riporta l'uomo alla sua condizione di animalità, del mors tua e vita mia, homo hominis lupo. L'uomo è lupo per gli altri uomini. Ok, quindi abbiamo fatto questo collegamento. Fra l'altro sei stato molto gentile a trovare il modo di riassumere questo in un volo pindarico veramente velocissimo. Grazie a te. Un tema che è tanto grande, anche perché io non me ne ero quasi accorta, ma sono già le 21:59. Accidenti, allora. Quindi dobbiamo salutarci, Simone. Buonasera a te, Fedra, e buonasera a tutti gli ascoltatori. Sì, in particolare è arrivato un altro messaggio dal nostro solito grande amico, che ci scrive: è inutile che continui a dare il numero, vi ascolto solo io. E quindi perché? ottimo. Allora ti saluto, grazie per avermi ascoltato. Potremmo proseguire la cosa facendo due chiacchiere, magari. Sì, ad un'altra puntata del Cox spaziale.